10.57 sulle libere frequenze di Radio Blackout, prosegue la mattinata informativa e come ogni martedì torna in onda l'appuntamento con Parole Ribelli, la trasmissione del collettivo universitario autonomo di Torino. E allora un buongiorno a tutti e a tutte voi che siete in ascolto, per ora qui in studio Francesca a tenervi compagnia, ma sono in attesa di Carla che mi raggiungerà tra pochi minuti a questi microfoni. Nel frattempo vi ricordo come sempre i contatti per scrivere a Radio Blackout, il numero del telefono fisso è 011 249 5669, mentre il numero di cellulare è 346 667 3263. E allora vi lascio ancora in compagnia per alcuni minuti della nostra sigla e poi ci risentiamo subito per presentare la puntata di oggi. Allora sono le 11 in questo momento, come vi ha già annunciato Maria in chiusura dell'info, quest'oggi Parole Ribelli andrà in onda in versione un po' ridotta, vi saluteremo con qualche minuto di anticipo rispetto al solito, ma insomma cercheremo di dar spazio a tutti gli approfondimenti previsti, quindi vado a presentarvi brevemente gli argomenti di cui ci occuperemo oggi. Per quanto riguarda il territorio torinese, ci faremo raccontare del corteo che c'è stato venerdì appunto qui a Torino, che era stato convocato dagli studenti di alcune scuole superiori e che aveva insomma al centro della protesta il problema dell'edilizia che insomma da anni affligge molti degli edifici scolastici non solo qui a Torino ma in tutta Italia, quindi ci faremo raccontare appunto dalla voce di Stefano del collettivo studenti auto-organizzati come è andata. E sempre per quanto riguarda il tema della riforma della scuola, della cosiddetta buona scuola, andremo a commentare brevemente un articolo che è uscito in questi giorni sulla questione dell'alternanza scuola-lavoro e a ricordare a questo proposito anche un appuntamento che ci sarà in cavallerizza con la riunione appunto dei docenti in lotta contro la buona scuola. Per quanto riguarda invece insomma il territorio non torinese, ci metteremo in contatto con i compagni e le compagne di Cagliari per presentare l'appuntamento di questo giovedì 11 febbraio, quando appunto nel capoluogo sardo atteso il leader della Lega Nord Salvini, che come è già accaduto molte volte in questi mesi troverà ad accoglierlo una contestazione, quindi ci faremo raccontare un po' come si annuncia questa giornata e faremo presentare appunto l'appuntamento. Faremo poi un po' di rassegna stampa, in particolare andremo a continuare a parlare di un argomento di cui ci siamo già occupati la settimana scorsa, rispetto al boicottaggio che è stato firmato da molti accademici rispetto agli accordi tra l'Università di Torino e quella di Haifa in Israele, un boicottaggio che ha ricevuto insomma molte reazioni e anche delle critiche, a cui è seguita anche la risposta di alcuni firmatari dell'appello, quindi andremo a commentare brevemente anche questo. Questo è più o meno quanto, io vi lascio a un po' di musica mentre vado ad aprire a Carla che nel frattempo mi ha raggiunta e ci risentiamo tra pochi minuti. Oh, gente de borgata, è turco, e ce lo sai. Ah, è una dannazione, è un'ossessione. Se, io sono Sparo Manero, facce diffidenti quando passo nel tuo stereo, in clero, per davvero, vesto scuro, picchio le mie Nike sul tuo culo, sono io l'amico di nessuno e vaffanculo, resto fuori dalla moda e dallo stadio, fuori dai partiti e poi giurarci per lo Stato, c'è il mio dito medio, un cane senza museruola, acqua in bocca che io qua sto con l'acqua alla gola e te, canta che te passa ma non te passa più, stai troppo fatto, la depressione ti butta giù, schiaccia, per me la vita più che vita è una vitaccia, la legge mica me protegge, me minaccia, arresta il ragazzino che spaccia, se beve la puttana ma lascia il magnaccia, lo so, è tutto made in Italy perciò, non chiedermi se io quest'anno voto o no, e ce lo so, che la mia dannazione è d'essere nato senza direzione, e ce lo so, che la mia dannazione è d'essere nato senza protezione, e ce lo so, che la mia dannazione è d'essere nato con quest'ossessione, ce lo so, che la mia dannazione è d'essere nato in questa merda di nazione. Io quando andavo a scuola da bambino, in classe non c'è stavo e stavo quasi sempre in giro, a Roma per strada, sempre sopra il motorino, e tutti i giorni sempre dentro a qualche casino, ancora sopravvivo, al ventre qualche fitta, cammino tra la gente sempre con la schiena dritta, preparato alla vittoria, abituato alla sconfitta, arrivato fino a mo un po' di storia l'ho scritta, la prima cosa che ho imparato in assoluto è fammi cazzi miei, provaccia non hanna bevuto, e questo è il mondo nudo e crudo, benvenuto, io sul fondo me la sudo questa vita ogni minuto, e te prova a stammi appresso, prova a fallo adesso, io sto in ballo in questa storia, me ci hanno messo, Sparo Manero, direzione non so dove, ancora metto il cuore da straniero nella mia nazione, che la mia dannazione è d'essere nato senza direzione, ce lo so, che la mia dannazione è d'essere nato senza protezione, ce lo so, che la mia dannazione è d'essere nato con quest'ossessione, ce lo so, che la mia dannazione è d'essere nato in questa merda di nazione. Pardon me, how the fuck you gon' stall with me? I'm me. You get laced down from your face down. Drop this shit. Niggas throw them on peace stand for mopping shit. Don't get it twisted. I told you that we top of the line. Design realistic. For instance, mash out my side. We'll come through and clear your ass out. Dump and air your ass out. Jump, we cold. You seen my work, you know my steez. It's a slim chance that I'ma hesitate to squeeze. Please, money never made me, money never played me. And money bet not make me. Crack his ass, subtract his ass when I step through his hood. Fuck dropping you, I'm into stopping you for good. Stop him if you could. You're as cold as ice. And you'll be stiff as a log in a suit looking nice. You're the sinner, nigga. You're as cold as ice. But you ain't cold enough to freeze hot slugs when they run up in ya. You ain't in my class, nigga. I'm the last nigga. You gon' fuck around and get blast. Sucker ass, nigga. The soul survivor, survivor soul. Nigga, you rollin', I rollin' strong. I told you that I'm cold. E 10 sulle libere frequenze di Radio Blackout, siete sempre all'ascolto di Parole Ribelli. Allora iniziamo con la puntata di quest'oggi e lo facciamo con ai nostri microfoni Stefano del collettivo Studenti Autoorganizzati, che intanto salutiamo e ringraziamo. Ciao. Eccomi. Stefano. Ciao a tutti. Allora, con te volevamo farci un po' raccontare del corteo che c'è stato alcuni giorni fa, venerdì, qui a Torino, che era stato indetto dagli studenti, in particolare di due scuole appunto di Torino, rispetto al problema dell'edilizia scolastica, che appunto in questi due istituti era diventato particolarmente insostenibile, quindi è nata un po' questa spinta anche a dare voce pubblicamente a questi problemi. L'appuntamento era stato dato appunto per venerdì mattina a Porta Susa. Niente, ti lascio la parola per raccontarci com'è andata. Sì, ecco, come dicevi appunto tu, questo corteo è stato lanciato precisamente dai studenti di Giulio, che nella settimana precedente a quella del corteo si sono mobilitati autonomamente, appunto facendo un presidio sotto scuola contro appunto il freddo nelle aule e una mancata insomma, i presidi non si occupano dell'edilizia scolastica all'interno della scuola. Appunto è stato lanciato questo corteo di venerdì scorso la Porta Susa, che ha visto principalmente gli studenti presenti, gli studenti appunto del Giulio e Colombatto, le due scuole che appunto si sono auto-organizzate autonomamente già nella settimana prima per protestare contro la fatiscenza degli edifici scolastici, ma poi erano presenti anche studenti di altre scuole. Circa un centinaio, 200 studenti sono partiti in corteo e hanno raggiunto Città Metropolitana, che è quell'ente che si occupa precisamente dell'edilizia delle scuole. Una delegazione è riuscita a salire, a parlare con alcuni dirigenti, il vice sindaco di Città Metropolitana. Ovviamente quello che gli è stato detto è che il problema è che i soldi non arrivano da loro, quindi loro non possono agire senza i soldi che ricevono dallo Stato, quindi delegano un po' la colpa a qualcun altro, come è solito fare a queste persone. Però ci hanno detto che in settimana, ovvero questa settimana qua, verranno nei nostri istituti e verranno a controllare, appunto noi capiremo poi se è vero, se sono le solite promesse false che ci dicono sempre, oppure davvero verranno e capiranno quali sono davvero i problemi. Così ovviamente alla fine siamo rimasti anche a fine del corteo, che se non verranno noi continueremo la resistenza, continueremo a farci sentire, perché è inammissibile che negli edifici scolastici non ci sia né sicurezza, appunto il diritto di poter studiare in un luogo appunto a norma e che non ti crolli il tetto in testa. Quindi appunto questa settimana qua saremo a vedere i nostri istituti, più precisamente al Giulio e al Colombatto, che sono le scuole che sono mobilitate di più, cioè appunto queste persone, questi ingegneri si faranno vedere, o come al loro solito queste erano solo parole campate in aria e poi i problemi non verranno più sentiti. Quindi appunto se non verranno noi continueremo a farci sentire con presidi sotto scuole o presidi appunto sotto Città Metropolitana. Quindi sicuramente quello di venerdì scorso era solo l'inizio, noi non ci fermeremo, ecco. Comunque per il corteo poi è proseguito verso Piazza Statuto, dove le forze dell'ordine, come al loro solito, hanno cercato di intimidire il corteo, iniziando a spingere e a fermare studenti, un po' a caso, solamente perché volevano fare un intervento nel mezzo della piazza per appunto far sentire anche ai passanti, alle macchine ferme lì, cosa stava succedendo, e ovviamente con il loro solito modo repressivo e meschino hanno appunto cercato di intimidire il corteo. Ovviamente gli studenti non si sono fatti intimidire, hanno proseguito e il corteo si è concluso poco dopo a Porta Susa, rilanciando sia una mobilitazione interna alle scuole, appunto per, come dicevo prima, per vedere se questi personaggi di Città Metropolitana si faranno vedere, sia rilanciando anche un'assemblea che ci sarà giovedì prossimo, cioè questo giovedì qua, il giovedì 11, in Cavallerizza alle 5, che è sempre parte delle assemblee che vanno avanti da questo autunno insieme ai professori, ecco. Quindi questa è stata un po' la giornata di venerdì scorso. Ok, beh, insomma, quello che mi sembra interessante rilevare, oltre appunto alla cronaca di com'è andata, che ci hai ben raccontato, è anche un po', diciamo, la modalità atipica di questa mobilitazione, che intanto arriva in un periodo, appunto, insomma, comunque di difficoltà generalmente per le mobilitazioni studentesche, quindi in un periodo un po' atipico, e poi che è nata proprio sulla spinta, di alcuni studenti delle scuole che hanno deciso di organizzarsi, mi sembra anche da quel che ho capito anche un po' scavalcando i rappresentanti delle scuole, o comunque quelli che dovrebbero essere gli organi preposti, insomma, a questo tipo di situazioni, appunto hanno deciso invece di fare un passo in più e di mobilitarsi autonomamente, quindi questo mi sembra sicuramente un dato interessante, anche un po' forse inedito rispetto allo scenario che abbiamo avuto di fronte negli ultimi anni per quel che riguarda le scuole e le università. Esatto. Facevi menzione di un appuntamento di cui ti volevo appunto chiedere, che è quello dell'assemblea pubblica di studenti e lavoratori in Cavallerizza, questa assemblea che si sta riunendo ormai in maniera regolare da alcuni mesi, che avrà in particolare come oggetto la questione dell'alternanza scuola. Sì. Se hai voglia di raccontarci un po' anche di questo appuntamento. Ma sì, ecco, dall'ultima assemblea di coordinamento di circa due settimane fa è nata l'esigenza di dare un punto di vista, dare posizione del coordinamento appunto a proposito della questione dell'alternanza scuola-lavoro. Sappiamo bene che è un tema che ora nelle scuole inizia a farsi sentire, quindi c'è l'esigenza appunto del coordinamento di dare una posizione chiara che vada appunto all'interno delle scuole in cui la presenza del coordinamento è presente. Quindi appunto c'è questo appuntamento giovedì prossimo, ovviamente sono tutti invitati, da professori a studenti universitari e medi, appunto per partecipare a questa assemblea sull'alternanza scuola-lavoro, ecco. Quindi appunto ridò appuntamento giovedì prossimo in Cavallerizza alle 5. Va bene Stefano, noi ti ringraziamo e niente, ci risentiremo magari nelle prossime settimane se ci saranno aggiornamenti rispetto a questa questione dell'edilizia, vediamo se effettivamente le promesse fatte durante il corteo verranno mantenute o se altrimenti sarà il caso di tornare a farsi sentire. Per ora ti Grazie. Ringraziamo, ti salutiamo, ti auguriamo una buona giornata. Grazie anche a voi. Ciao. Scappa, se la situazione è fatta, sempre più tesa e l'aria rarefatta. Se la tua testa non si adatta e sulla tua pelle non si tratta, segna una rotta sulla mappa e poi metti in tasca i pochi euro che c'hai, arraffa quello che puoi, saluta tutti, bye bye. Che farai? Se sei lo sai che se stai fermo ciò che cerchi non lo troverai. Cosa aspetti, vai? Ora spegni i lines, metti una traccia soft e pensa bene a ciò che vuoi, io ci sono boss. Sii più egoista, man, e credi in te. Hai gli skills per lottare, per resistere a quest'inerzia che ci porta via, accompagnata da un po' di malinconia. Tutti schiavi di questa follia, perdiamo il senso dell'insieme. Il consiglio è breve, fai quello che ti serve per stare adesso bene. Che farai? Vai o resta? Ma fammi capire che ti passa per la testa. Qua ogni giorno una battaglia. Ed è normale se si sbaglia, che farai? Vai o resta, ma metti a fuoco solo quel che ti interessa. Là puoi ripartire da zero, ma se ti fa sentire vivo è vero, fra. Prima di scappare aspetta, lo sai che non sei solo se vuoi muoverti più in fretta. Resta a contatto con il suolo, i tuoi piedi vanno vuoto se non toccano per terra. Per metà è volontà, resta gravità. Se vuoi se ne discute ci si becca. La mente è un paracadute e funziona solo quando è aperta. Quando tutto precipita e ti serve una conferma, c'è sempre una rivincita nel caso che tu perda. Di noi del resto puoi fidarti, adesso ascoltami e se vuoi credimi più tardi se puoi. Richiamami, spero tu non sia in viaggio. Se non mi trovi son fuori, lasciami adesso stato. Che farai? Vai o resta? Ma fammi capire che ti passa per la testa. Qua ogni giorno una battaglia. Ed è normale se si sbaglia, che farai? Vai o resta, ma metti a fuoco solo quel che ti interessa. Là puoi ripartire da zero, ma se ti fa sentire vivo però riprendi di me. È tutto a posto perché se è tutto a posto tra noi, decidi quello che vuoi. Vai o resta, resto vai. Capire che ti passa per la testa. Qua ogni giorno una battaglia. Ed è normale se si sbaglia, che farai? Vai o resta, ma metti a fuoco solo quel che ti interessa. Là puoi ripartire da zero, va. Se ti fa sentire vivo è vero, fra. del mondo in un giorno, il giro del giorno in un mondo, il giro di un giorno, il giro del mondo. TNT. Dimmi, dimmi tu se c'è o no, io non distingo falso vero, ma a me questi giorni i miei sogni van su, le mani van su, i richiami van su. Dimmi, dimmi tu che passa, ma in questa gabbia manca l'aria. Oh, e mentre parlo i miei occhi van su. Oh no, e mentre parlo i miei sogni van su. Io vidi posti che mai vidi mai, naviga i tuoi sogni con i miei marinai. Vidi gente e terre che tu mai vedrai, culture sconosciute, ribelli e focolai. Io non so più quello che è vero, frutto del mio pensiero. Tanto tempo fa, da tanto tempo, ma la mia mente forse è mentira. Ma Jay apriva i suoi occhi quando era giorno e rigettava il torto che vedeva attorno. Si richiudeva nel sonno in un secondo, se ne scappava nel suo viaggio attorno al mondo. Salgo in una delle tante albe col cielo a scaglie, poi si voltò a salutare dal porto di Buenos Aires. Lui, avventuriero fiero sul suo veliero, immortalato in bianco e nero dal lampo di magnesio. Non temeva la morte nelle intemperie, almeno lui uomo solo in mare aperto. Diceva quello che voglio lo posso prendere, e ciò che resta saranno abissi e deserto. Sotto l'Atlantico in una notte, al mattino vide gli scogli, viaggiò ospitando la morte sulle tratte dei capodogli. Quando arrivò a Madeira, visto il sole fra i palmizi, il ceppo basaltico coperto di mimose e di eucalipti, poi giù a capofitto, favorito agli dei, il tragitto verso sud fra i flussi asciutti degli Alisei. Dalla sommità del ponte, guardando ad oriente, poteva scorgere all'orizzonte la linea della curva terrestre. Stoffa l'uomo passò la Costa d'Oro, nel suo costa a costa esibiva un doppio rostro, a tutti i costi doppio il capo dell'olandese volante, dove il gigante fatto roccia divideva le masse oceaniche. Trepassava la lacrima indiana, il vento aumentava, sfidò piogge e cicloni, la forza dei monsoni, verso la fossa di Giava, fino alla baia del Bengala, vide l'Himalaya, tetto del mondo, sul fondo dell'Asia. Dimmi, dimmi tu se c'ero o no, io non distingo falso vero, ma a me. E tra ste onde i miei sogni van su, le mani van su, i richiami van su. Dimmi, dimmi tu che passa, ma in questa gabbia manca l'aria. Oh, e mentre parlo i miei occhi van su. Oh no, e mentre parlo i miei occhi van su. A me cabro, ma lui non temeva niente, perché niente poteva mai perdere. Diceva wow, è tutto nella mia mente, la mia mente si prova a difendere. E ora libero davvero, come forse non tornerò mai. Diceva weo, weo, questo mare incanta man, weo, weo, e la mia mente scappa e vai. Sentendo il rumore del vento, strinse il timone fra i pollici, la gioia del cuore si rovesciava negli occhi indomiti. Sumatra s'annunciò negli estuari delle gore, ne vide i megaliti vari ergersi fra le mangrovie, ma il suo sguardo era altrove, levigato dal sole, che sfibrava cirri e nembi in corsa verso l'ovest. Ora finava vele complete di controfiocco, laddove anche le baleniere non s'arrischiavano al sorpasso del tropico. Oltre ogni monito, fra le rade del mare australe, cazzava una nuova randa bianca, finché non vide i banchi di ghiaccio galleggiare alla deriva della Nuova Zelanda, per poi sparire nell'aereo. Vide spuntare nuove isole fra le mattine, sotto la spinta delle eruzioni vulcaniche sottomarine. Ascese nell'azzurro cobalto del mare di Polinesia, la distesa d'acqua screziata di bruacciaio ed ardesia. Poi fra i salti dei branchi di pesci volanti a nuove mete, sopra albatri con ali ampie fino a cretese. Avvistò il continente mentre la luna cresceva, vide i pescatori di Marlin andare al largo anche sera sera. Un suono interruppe il suo sguardo verso la costa, era la voce della guardia delle otto che apriva la porta. Fingeva una razza sporca, colma di sbobba, l'unico sbuffo d'aria in una giornata di tanto e penombra. Jay si destò, rivide i muri della cella in cemento, lui detenuto recluso in isolamento da tempo, ma già chiudeva gli occhi e dopo un solo momento salpava verso nuovi lidi, sospinto da un vento fresco ed eterno. Dimmi, dimmi tu se c'ero o no, io non distingo falso vero, ma a me. In questi giorni i miei sogni van su, io fuggo tra i blu, diversi ma blu. Dimmi, dimmi tu che passa, ma in questa gabbia manca l'aria. Oh, e mentre parlo i miei occhi van su. Oh no, partono all'alba e non tornano più. Non vidi posti che mai vidi mai, naviga i tuoi sogni con i miei marinai. Vidi gente e terre che tu mai vedrai, culture sconosciute, ribelli e focolai. Io non so più quello che è vero, frutto del mio pensiero. Tanto tempo fa, tra tanto tempo, ma la mia mente forse è mentira. Vi vogliamo segnalare un articolo molto interessante sul sito di Clash City Workers sull'alternanza scuola-lavoro, ovvero perché la riforma della scuola riguarda tutti noi, che parla, insomma, ci dà molti dati sull'alternanza scuola-lavoro, su come si pensa che risolverà il problema della disoccupazione giovanile, insomma, cercando di sfatare questo mito, cerca di smontare il tema anche della dispersione scolastica. Ve lo segnaliamo dal profilo di Parole Ribelli, mandiamo un altro pezzo nel frattempo. Cosa mi resta dell'infanzia? Me lo sono già chiesto adesso. L'ennesimo bilancio con me stesso, se mi è concesso. Non parlo di successo né di gloria, ma un piccolo ripasso della storia. 30 anni e passa dalla culla al palco. Non ci guadagno soldi e mi chiedono perché lo faccio. Ma un'esigenza musicale sin dal primo impatto. Carry on, suonando il vero Amarcord. Benvenuti agli anni zero, giubileo. La prima bocciatura al liceo. I sound system in corteo. L'epidemia di mucca pazza. Camionetta e spari in piazza. Carlo, ancora oggi non riesco a scordarlo. La TV racconta l'11 settembre, lacrime d'ombre, torri gemelle, il sud ribelle, i manganelli sulla schiena, muore Montanelli, Milano e la sua notte nera, odio ancora Dax, Hamas, la seconda intifada, la SARS, la prima pecora clonata come il bancomat, sangue e petrolio, Baghdad, impiccano Saddam, la Cirio fa crack, bancarotta come Parmalat, chiudo una rese, termini merese, fiat, ricercatori se ne vanno via, fuga di cervelli, figa nei cervelli in Italia, è un'utopia, mentre la democrazia fa boom, nasceria. Non ci rimane che puntare tutto su noi, tutto su noi. Non ci rimane che puntare tutto su noi, tutto su noi. Non ci rimane che puntare tutto su noi, tutto su noi. Non ci rimane che puntare tutto su noi. Il carcere di Abu Ghraib, fotoboia in Italia, intanto tornano in Savoia, teleparanoia. Scherzi a parte, l'Italia al trap, l'arbitro Moreno, muore Arafat, pugni al cielo. L'Ilva e la ThyssenKrupp, ne ricordo il blocco di Candervia, il derby del bambino morto. Pantani in overdose, scompare Denise, fra Bonolis e Canalis, Viagra e Chalis. D'Alema bis, Berlusconi tris, mentre Rine Provenzano al 41 bis. Dai talebani agli Hezbollah, oggi abbiamo l'ISIS. Vorrei spazzarvi via da qua come Katrina con New Orleans. Prima di Wikileaks e i social forum e no global. La poi la coca, Olindo e Rosa, e Luana Englaro e l'eutanasia. La viaria dalla Turchia e sassi dal cavalcavia. L'emergenza rifiuti, la faida di Scampia. Lo tsunami e il pastore tedesco in sacrestia. Perugia Meredith come a Garlasco, Chiara Poggi. La Juve in Serie B, il primo Daspo, calcio Poli e Moggi. Che Cozzalone, Negramaro, palinsesto, indigesto, come i cannoni per Cuffaro. Tra Corona, Rubi, Lada, Dario, Veronica, Lario, chi resiste c'ha 50 sfumature di precario. Non ci rimane che puntare tutto su noi, tutto su noi. Non ci rimane che puntare tutto su noi, tutto su noi. Non ci rimane che puntare tutto. Perenne crisi nonostante Obama, tutti terroristi anche se muore Osama, e festeggiano i 150 anni di unità, lucrano sui danni e ridono sui morti all'Aquila. Dal pollice opponibile all'indice digitale, fisso digitale, touchscreen, rap mainstream, figli di talent e di selfie andati a male, qua è un romanzo criminale, da Gomorra, mafia capitale, femminicidi, suicidi, fra spread e depressione, tu piangi raciti, io un milione di persone su un barcone, dai migranti a tutti Sandri, Aldrovandi, Selavi, in Italy, fra la coca e l'MD, tu 5 stelle, io B&B, l'ignoranza abbonda, la nazione affonda, Costa Concordia. Negli anni ho perso amici, fratelli e compagni, ma ho due figlie e amo la stessa donna da più di 10 anni. Thank you. 11.32, bentornati all'ascolto di Parole Ribelli sulle libere frequenze di Radio Blackout. Prima di spostarci a Cagliari per presentare l'appuntamento di giovedì contro Salvini, andiamo a dare qualche aggiornamento invece dal contesto internazionale. Uno per quanto riguarda l'appello di cui vi avevamo già parlato la settimana scorsa rispetto al boicottaggio degli accordi tra le università italiane e quelle israeliane, che in molti casi hanno anche per oggetto appunto fondi per la ricerca militare, che quindi hanno conseguenze dirette e pesanti in quella che è l'oppressione del popolo palestinese e l'occupazione dei territori. Come vi avevamo già detto la settimana scorsa, appunto questo appello ha suscitato molte reazioni. Addirittura il sindaco Fassino è intervenuto condannando questo tipo di boicottaggio. Dall'altro però questo significa anche che invece il numero di firme, insomma, è sicuramente riuscito anche un po' a bucare il silenzio su queste vicende. E a prendere parola sono stati anche alcuni rettori italiani, in particolare quelli di Torino e di Roma, che se da un lato, insomma, hanno dato legittimità a questo tipo di appello, dicendo che le contestazioni vanno ascoltate, quindi in un certo senso discostandosi da quelle che erano state le dichiarazioni di Fassino, dall'altro però hanno tirato fuori una retorica piuttosto in voga in questi casi, che è quella del chiedere di distinguere tra la politica e la ricerca, come se la ricerca scientifica potesse essere qualcosa di neutrale o di distaccato dalle sue conseguenze. Ecco, sappiamo bene che così non è, e che questo era proprio anche uno degli oggetti dell'appello, quindi questo tipo di reazioni un po' così che puntano a lavarsene le mani, a non prendere posizione di fatto, sta suscitando alcune reazioni, tra cui quelle di alcuni firmatari che appunto hanno risposto ai rettori italiani. E segnaliamo che anche qui a Torino, tra l'altro, un gruppo di studenti la scorsa settimana ha cercato di amplificare, insomma, la voce di questo appello al boicottaggio. Proprio al campus Einaudi è stato appeso uno striscione, sono stati distribuiti alcuni volantini. Abbiamo avuto occasione, insomma, di parlare con questi ragazzi. Sulla pagina del collettivo universitario autonomo trovate anche una breve intervista video che gli abbiamo fatto, in cui spiegano proprio le ragioni di questa appello, che cosa si può fare appunto concretamente per sostenere questa campagna di boicottaggio. E l'altro aspetto di cui vi volevamo brevemente parlare riguarda invece la morte del ricercatore Giulio Regeni, di cui molto appunto si è parlato in questi ultimi giorni. Le ultime notizie che giungono appunto dal Cairo parlano di un continuo rimpallo di responsabilità da parte del governo egiziano, che addirittura arriva a negare un coinvolgimento delle forze armate in quella che è stata l'uccisione di Giulio Regeni, e addirittura anche a negare il fatto che vi siano state torture, nonostante sul suo corpo, insomma, ci siano segni evidenti di quello che ha passato prima di morire. Quindi continua, insomma, un po' questo balletto anche ipocrita tra il governo egiziano e quello italiano, che insomma sembra un po' inasprirsi nei toni, ma di fatto sappiamo che finora non è stato messo assolutamente in discussione quello che è il rapporto di proficua collaborazione economica e politica che il nostro governo intrattiene con quello egiziano. Il fatto che appunto in questo caso sia stato coinvolto uno studente italiano ha necessariamente scosso un po' le acque, ma sappiamo appunto quanto si tratti di quanta ipocrisia appunto ci sia nell'atteggiamento del governo italiano in questo momento. Sempre appunto sulla morte di Giulio Regeni, anche in questo caso era stato diffuso un appello nei giorni scorsi, che era partito dall'università inglese per la quale appunto studiava e lavorava. Una lettera aperta che è stata inviata al governo egiziano, in cui si chiede appunto di collaborare, soprattutto di far sì che si arrivi davvero alla verità su quanto è accaduto a Giulio, e che si possa appunto capire davvero che cosa è successo. E insomma, il dato abbastanza significativo è che questa lettera aperta è stata diffusa e pubblicata solo pochi giorni fa, e nel giro di nemmeno una settimana ha già raccolto 4.500 firme e adesione da parte di accademici, insegnanti, insomma, non solo sia italiani che inglesi, ma insomma di tutto il mondo accademico. Insomma, per quello che possono valere questo tipo di appelli, però sicuramente denota che c'è un'attenzione rispetto a questo tema ed un pezzo in più, insomma, che si può portare rispetto a questa vicenda. Nel frattempo ci è arrivato un SMS al 346 667 3263, che ci scrive: c'è un articolo bellissimo su Carmilla online, oggi leggetene un pezzo meraviglioso e rende un minimo di giustizia a Giulio. Non l'ho visto, quindi ringrazio l'ascoltatore o l'ascoltatrice per la segnalazione. Come dicevo in apertura, oggi purtroppo dovremo chiudere con un po' di anticipo, quindi non so se riusciremo a leggerlo, però rilanciamo appunto volentieri l'invito di questo ascoltatore ad andare a leggerlo. E proprio in questo momento arriva un altro SMS che chiede quante volte deve morire Giulio, e insomma immagino si riferisca all'ipocrisia del governo, insomma, sulla faccenda. E niente, noi su questo chiudiamo qui, adesso facciamo una breve pausa musicale, poi torniamo in diretta invece da Cagliari. Adesso penso che mi serve il tuo silenzio e tutta l'attenzione di cui sei capace per stare sul pezzo. La chiave, sto parlando a Michael Jackson, Charles Manson, la mia chiave parla meglio di un altare con l'incenso. Esco dalla ruota dell'amore per possesso, che guarda un individuo rinunciare al suo universo. Preghiere testa bassa per l'ira di un dio funesto, ma qui è piena di grazia solo l'ultima jam session. Venero l'altissimo maestro dell'estro, perché mi tiene al fianco di chi ho perso. Si tiene le mie pietre, non teme il mio disprezzo, e se glielo confesso ci sta lui senza nessuno che si mette in mezzo. E la concordia è un orizzonte compromesso, e la misericordia arriva dietro l'autocompenso. Scusate, non avevamo capito che quante volte dovrà ancora essere ucciso Giulio Regeni è il titolo dell'articolo su Carmilla, che possiamo anche rigirarvi dalla nostra pagina. Ogni sbaglio commesso in nome di un Dio che alle volte è anche il mio, ma mio amico solo se sto buono. E gli altari che fai, le preghiere che stai, non ti servono per farti uomo. Lo faccio in nome di nessuna realtà, con le cose che ho già, nel nome di mio padre e mia ma, nel nome di mio padre e mia ma. La provvidenza non ci pensa proprio a proteggerti la testa, neanche il patrimonio. Che chi parla di indecenza è il primo a credere al demonio. Perciò non vergognarti del tuo odio quando è odio. Parlare in verticale con il cielo è un'eresia, ma è meglio che guardare il clero spendere in gioielleria. Domenica c'è un'altra processione, un'altra comunione. Il prete con il bancomat a vendermi la soluzione. Il reverendo sta parlando piano, ora che è tremendo il desiderio di una donna e di sapersi umano. Racconti a un'altra cica la tua favola di Adamo, reverendo, butta giù le mani, senti bene, non mi serve il tuo abito sacro di più di quanto sangue ha versato già mio papo, che mi ha levato, e solo la mia messa è buona, nel nome del padre, del figlio e dello spirito che suona. In nome di un Dio che alle volte è anche il mio, ma mio amico solo se sto buono. E gli altari che fai, le preghiere che sai, non ti servono per farti uomo. Lo faccio in nome di nessuna realtà, con le cose che ho già, nel nome di mio padre e mia ma, nel nome di mio padre e mia ma. Just like a little child. In nome di un Dio che alle volte è anche il mio, ma mio amico solo se sto buono. E gli altari che fai, le preghiere che sai, non ti servono per farti uomo. Lo faccio in nome di nessuna realtà, con le cose che ho già, nel nome di mio padre e mia ma, nel nome di mio padre e mia ma. Yo, get the commissioner on the phone. Del Guevara, line up the revolutionaries, y'all. Yeah. It's funny how money changes situation. Miscommunication leads to complication. My emancipation don't fit your equation. I was on the humble, you on every station. Someone play young Lauren like she done. But remember not to game the one to the sun. Everything you did has already been done. I know all the tricks from bricks to kings down. Like King Don Major, King Don Juan Ron. To understand El Boogie, now violin. But if a thing test me, run to McGyan. Y'all take a threat to me newborn son. El been this way since creation. A groupie call you far from temptation. Now you want ball over separation. Tarnish my image in the conversation. Who you gon' scrimmage like you the champion? You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. Hopeless, now I'm on hope road. Every man wanna act like he's exempt. When the need to get down on his knees and repent. Can't slip talk on the day of judgment. The movement from a love to a serpent. Try to play straight, how your whole style been. Consequences, no coincidence. Hypocrites always wanna play innocent. Always wanna take it to the full out extent. Always wanna make it seem like good intent. Never wanna face it when it's time for punishment. I know you don't wanna hear my opinion. Febbraio sbarca a Cagliari Salvini, anzi a Cagliari, Alghero e Olbia, sembra che abbia addirittura il dono dell'ubiquità, si fa il tour della Sardegna in una giornata per presentarci le sue retoriche populiste che verranno respinte in grazia del cielo. Salvini è venuto anche precedentemente in Sardegna, ma è stato respinto anche quando ci ha provato la prima volta. Ha iniziato con la sua campagna elettorale parlando di Padania, parlando di Nord, e ora prova a cercare di inserirsi con una nuova campagna elettorale parlando di tematiche razziste, xenofobe, ma insomma l'isola non ci sta. Siamo in diretta con Fabrizio, uno studente e un compagno di Sadomu. Fabrizio, ci senti? Sì, vi sento, vi sento un po' abbassi. Ok. Però vi sento. Vabbè, adesso? Adesso meglio. Ok, Beh, raccontaci un po' cosa, che tematiche vorrete portare in piazza, come, quali sono stati i passaggi per organizzare questa importante giornata, come sono entrati in gioco gli studenti, i quartieri. Ti lascio libera parola e insomma raccontaci un po'. Ok, va benissimo. Innanzitutto buongiorno a tutti e grazie dell'opportunità che ci avete dato di potersi esprimere, diciamo, in radio. Niente, allora, la chiamata per la manifestazione dell'11 è partita circa 2 settimane fa, perché siamo venuti a sapere tramite i social network, socialmente tramite la pagina di un noto esponente della destra cagliaritana che da anni si ricicla nei vari partiti che compongono la galassia dell'estrema destra, che l'11 di febbraio appunto sarebbe venuto Salvini a inaugurare una sede di Noi con Salvini. Di tenere un comizio poi in un albergo, nella sala di un albergo della città. Quindi diciamo tra di noi la voce è girata subito, ci siamo subito visti come coordinamento antifascista cagliaritano, che ormai sono già 4 anni che è attivo, diciamo, nelle mobilitazioni antifasciste all'interno della città di Cagliari e non solo. E abbiamo voluto convocare un'assemblea antifascista per il 3 di febbraio. Questa assemblea si è svolta all'università ed è stata molto molto partecipata, c'erano circa 100 di persone e diciamo che è stata ribadita la volontà di tenere un corteo popolare per, diciamo, respingere Salvini e quindi impedirgli di tenere il comizio l'11 di febbraio. Le parole d'ordine che sono state date sono state: respingiamo Salvini per tutta una serie di motivi che tu hai elencato prima. Ma diciamo, partendo dal presupposto che nella città di Cagliari e in Sardegna in generale comunque i razzisti, gli xenofobi e soprattutto chi fino a pochissimo tempo fa o chi ancora oggi continua a cavalcare, diciamo, le differenze tra nord e sud in chiave razzista, quindi il nord produttivo e il sud invece composto da incapaci, gente che non ha voglia di lavorare, sfaticati, e ha sempre usato il termine terrone per descrivere, diciamo, la categoria degli abitanti del sud Italia. E oltre a questo bisogna anche ricordare che una cosa che non si dice quasi mai, che la Lega Nord è stato partito di governo per molto molto tempo in questi 20 anni, ha preso parte ad alcuni dei governi più reazionari e impopolari della storia d'Italia, e quindi ci sembra anche giusto ribadire questo, che le politiche che porta avanti Salvini sono totalmente demagogiche e che chiaramente non hanno nessun tipo di poi riscontro reale nella realtà, specialmente nella città di Cagliari, dove lui non si è mai visto e dove le sue idee per fortuna non hanno ancora attecchito. Quindi insomma la risposta che gli vogliamo dare è molto forte e soprattutto gliela vogliamo dare in un quartiere come quello di Santa Mendrace, che è un quartiere a vocazione popolare, dove determinati discorsi non vogliamo che passino, non vogliamo che passi l'odio per il migrante, non vogliamo che passi l'odio per il diverso, e quindi a maggior ragione saremo lì e saremo numerosi a fargli sentire come la pensiamo. Ok, fra l'altro la chiamata è regionale, però anche ad Alghero e a Olbia si stanno iniziando a organizzare per fare qualche dimostrazione, presidia, manifestazioni, giusto? Sì, specialmente ad Alghero si sta organizzando la rete antifascista del Nord Sardegna, quindi diciamo che coinvolge le città di Sassari, Porto Torres e Alghero, specialmente si sta organizzando una contromanifestazione. Dobbiamo ricevere ancora notizie da Olbia, ma presumiamo che si organizzi qualcosa anche lì. Comunque la chiamata che abbiamo fatto noi è regionale, però chiaramente ci saranno diversi momenti, quindi anche ad Alghero e a Olbia si organizzerà qualcosa. È importante che si organizzi qualcosa anche lì per far sentire la voce di opposizione anche là, diciamo. Allora, grazie mille Fabri, grazie a voi. Ci teniamo aggiornati per capire quello che succederà. Invitiamo tutti chi si trova, insomma, nei pressi di Cagliari o della Sardegna, o anche chi è tanto volenteroso da voler fare una tappa, a partecipare a questa importantissima giornata che sarà decisiva per far passare un messaggio chiaro sul fatto che l'unico straniero in Sardegna è Salvini. Grazie tante, ci risentiamo. Ciao. Grazie a voi ancora. Ciao. E E mentre facevamo la diretta ci è arrivato un sms che ci scrive: a volte si possono anche non condividere gli argomenti, ma è certo che passate la meglio musica. Radio Blackout è l'unica radio con adblock incorporato. Allora ringraziamo l'ascoltatore o ascoltatrice per il complimento, che riceviamo sicuramente volentieri. E allora vi lasciamo ancora a un altro po' di buona musica. Le foto sui muri e te, adesso con chi sei dispersa nei mille perché, di ogni mia offesa resa, affondo tra i sacchetti della spesa, il vetro scorge un paesaggio che non conosco, ogni passaggio preso è un disagio che io non mostro, allungo il braccio e la serranda va su, si gela dentro sto iglu, per lo più devo raggiungere il bus, in cucina l'aroma di tazze grosse, scottano sulle lingue il prossimo colpo di tosse, oggi mi do al ripasso, forse, vado di fretta in bagno, ma il tempo non lo guadagno studiando le mosse, le ossa si congelano, spezzo tra fumo e spini, acqua dal rubinetto, pasta al pesto e sofficini, ora capisco guardando i miei addominali, che la libertà da mamma e i suoi effetti collaterali, da quanto tempo non vi sento, prometto che ricarico il telefono che spento, ho troppe discussioni con la gente sul mio accento, come il presentimento che serve una lente di ingrandimento, se guardo il tempo che passa e che resta, vecchie realtà e tristezze le perdo e non mi interessa, ma sms di mail non si tiene, la voglia di restare con loro a vedere il sole insieme, quando la strada brucerà le mie suole, dirò ai miei rude boy che non servono parole, abbraccio aperte in fronte raggi di sole, per non fermarsi neanche quando il giorno muore, quando la strada brucerà le mie suole, dirò ai miei rude boy che non servono parole, abbraccio aperte in fronte raggi di sole, per non fermarsi neanche quando il giorno muore, quando la strada brucerà le mie suole, la mia vicina busserà per porre fine a sto rumore, il mio cibo marcirà dai giorni di surgelatore, i vestiti stanno stesi sul balcone, un attimo e piove, in tele strazio, qualche stronzo paparazzo cattura due smorfie per un giornale del cazzo, la lavatrice trasborda di roba sporca, piatti dentro al lavello, il vento sbatte la porta, io metto su un vinile di Nina Simone, gracchia quello che basta è adatto alla situazione, questa soffre d'amore, il tipo cambia nazione, straggoli incaffellati avvolti dentro al piumone, il televideo a zero programmi, dammi due etti e fammi sti quattro quarti in grammi, si ostinano a chiamarmi, vogliono organizzarmi, certe serate in coppia che facevo 15 anni, la testa ruota, la casa è vuota, ma presto la riempirai, risolviamo paranoie che nessuno vuole mai, e potrai chiamarmi quando vuoi, va bene che aspettiamo questo sole e cancelliamo questo filo che ci tiene assieme, quando la strada brucerà le mie suole, dirò ai miei rude boy che non servono parole, abbraccio aperte in fronte raggi di sole, per non fermarsi neanche quando il giorno muore, quando la strada brucerà le mie suole, dirò ai miei rude boy che non servono parole, abbraccio aperte in fronte raggi di sole, per non fermarsi neanche quando il giorno muore, e a volte pompo fino a quando non esplodono, il suono è così duro che stacca i poster dal muro, è un'energia che sposta le nuvole del sole, lontano da quei limiti ora scalda quel che vuole, e più i giorni si fanno caldi e mi sfianco, adesso più che mai vorrei sapere se ti manco, Marco, stretto Palermo centro, lascio cazzi e problemi in una casa senza sole e con nessuno dentro, quando la strada brucerà le mie suole, dirò ai miei rude boy che non servono parole, abbraccio aperte in fronte raggi di sole, per non fermarsi neanche quando il giorno muore, quando la strada brucerà le mie suole, dirò ai miei rude boy che non servono parole, abbraccio aperte in fronte raggi di sole, per non fermarsi neanche quando il giorno muore, sguardo in alto, prendiamo il sole in faccia, che ho lo sguardo in alto, ho i piedi sulla strada, tre mani in alto, se prendi il sole in faccia, man, sguardo in alto, abbiamo il sole in faccia, tre di sole, man. Peace. Peace. Peace. Yeah. Direttamente dalla città di sotto. My comrade salute. Yeah. Good boy, Senor K. And one in the building with you, you know what I'm saying? All power to the people. Yeah. You know where to find me. Find me in the social center. You know what I mean? Yeah. Look, we about that self-governing hood as hot as a oven, full of guns with bodies on them. We kill that hate with that love, and the system threw us away. We knew we was buried treasure. They paper money long, but my destiny's hard to measure. This city reaches extremes and flips. Once bad is now good, matter of fact, it's the shit. We get hit with gentrification and unexplainable answers. And yo, they never thought that we could find a cure for the cancer. We the under city, but we over the top. They try to hold us down, but we never gon' stop. They try to break us down, but we building our block. We got the power of the people. Hey, la città di sotto. La città di sotto. Thought they had us down, underestimated my power. Hey, la città di sotto. La città di sotto. In the urban jungle, we beautiful like a flower. Hey, la città di sotto. La città di sotto. Something like Atlantis, they want my people to vanish. Hey, la città di sotto. La città. We defying the odds and they can't understand it. Sulla mappa è un aeroporto, il terzo di Milano. Un territorio estorto, a capannoni e grano. Nell'Interland che ingurgita paesaggi tutti uguali. Sobborghi, dormitorio e megacentri commerciali. Provincia che produce, adduce plus valenza. A colpi di cemento, PM10 e connivenza. Mafia e media impresa, Lega Nord e Chiesa. Banche, grandi media, cerchi magici in ascesa. Provincia paranoica, al tempo della troica. T'ammazzano di austerity e di crescita economica. È un'ottica dispotica, logica distopica. La città di sopra prende tutto e dà elemosina. La città di sotto, per chi la vuole sotto. È un ingranaggio rotto e resta fuori dall'indotto. È la città di scarto, è un quarto del paese. Che lotta con le spese, che arranca a fine mese. È la città di sotto. Thought they had us down, underestimated my power. E la città di sotto. La città di sotto. In the urban jungle, we're beautiful like a flower. E la città di sotto. La città di sotto. Something like Atlantis, they want my people to vanish. E la città di sotto. La città di sotto. We defying the odds and they can't understand it. È la città precaria che suda la diaria. Tra paria, l'umanità più varia, straordinaria. La matassa di conflitti e di contraddizioni. Le tensioni si respirano nell'aria. Sposarne le ragioni è un'etica di parte. Io sto dalla parte di chi non ha parte. Io sto con chi si indigna per scelta di giustizia. Ce l'ha da Montegrigna, periferia meticcia. Qua negli anni 80 era piazza d'eroina. Ora è vita del comune dentro ad ogni palazzina. È rotta di bollina, non cede a disciplina. La forza collettiva di chi sceglie e si incammina. Democrazia profonda che fonda mutualità feconda. Para onda, democrazia di fronda. È welfare conquistato dalla fonda. In attesa della grande onda. Thought they had us down, underestimated my power. In the urban jungle, we're beautiful like a flower. Something like Atlantis, they want my people to vanish. We defying the odds and they can't understand it. .01 di questo martedì 9 febbraio, noi ci prepariamo, come vi avevamo anticipato, a salutarvi un po' prima del solito, ma come di consueto andiamo a ricordarvi anche alcuni appuntamenti della settimana. Segnalo che dall'aula, dal tribunale dove oggi è in corso l'udienza di appello per Francesco, Lucio e Graziano, non sono arrivati aggiornamenti dopo la diretta che è stata fatta durante l'info. Ricordo che potrebbe essere che già di oggi venga emessa la sentenza, quindi l'invito è sicuramente a rimanere sintonizzati. Per ora appunto non abbiamo più avuto aggiornamenti, quindi penso si occuperà Maria, insomma, di darvi quelli che eventualmente arriveranno. Quindi questo per quanto riguarda il processo no TAV Francesco, Lucio e Graziano. Ricordiamo che oggi c'è anche la cena all'asilo occupato del Benefit Cassa Antirepressione. Domani invece, mercoledì 10, assemblea antisessista, che questo mese si ritrova alle 20 al Gabrio. Questo è più o meno quanto da quel che ci... Ah no, abbiamo dimenticato. Sempre domani 10 febbraio al Mezcal Squat, consueto appuntamento con la cena Bella Vita, dalle ore 19 viene a cucinare il tuo piatto preferito. Niente soldi, solo presa bene. Appuntamento al Parco della Certosa Irreale di Collegno. Questo è quel che ci comunica per ora l'agenda di Blackout per i prossimi giorni. Noi vi lasciamo ancora un pezzo musicale e poi vi salutiamo. Quasi aspettano il virtuosi simmetrico d'effetto, l'incastro complesso da un volto sia tosco che lesso, stronzo monesto, bronzo e sobrio, fra seconda del contesto, spavaldo e spaccone, mesto cagnone, fresco magrezzo, io sto senza carte dalla parte degli outsiders, è un labirinto senza fine sta mediocrità, scalzo sui cocci delle mie stesse speranze, puoi trovarmi coi compari solari a cantare ma yeah, attitudine spinta, testa di minchia, fegato da pinta, in smania di rivincita, colpi di cinghia, per la vita non per questa finta fiaba mal dipinta, zitto mai sotto una pioggia rossa come i White Stripes, credimi ci crederai, io me la vivo a tempo, batto la fiacca e mi riprendo e non son mai contento, fiumi d'alcol tra fiumi di skunk e palpo, fugo in alto e dopo ascolta ciò che sento finché c'entri dentro. Ascoltatori, questa è musica che va rilento, telespettatori, non è musica, è intrattenimento, grandi intenditori di sta musica, preparate la scomunica, è l'unica nostra spinta fuori da qua dentro. Ascoltatori, questa è musica che va rilento, telespettatori, non è musica, è intrattenimento, grandi intenditori di sta musica, preparate la scomunica, l'unica nostra spinta fuori. Porto come il filo ferro per i frades di Genova, bandito in rivolta, vestito di volta, pelle di pecora, tramo contro i Savoia, l'ordinamento, la regola, rapo fino a vedere che il Parlamento si sgretola. Che morsica, bombe come in Corsica, noi la brigata ostica, vi avveleniamo l'ostia, sì, roba tossica, bombe più che ne uscadi e beviamo cagnolari su tombe dei nostri cari, genuini, come gigioni fatte in casa, io rappo per i bambini che lanciano pietre a Gaza, questa roba tintata, la testa è dedicata alle strade di Belfast, questo non è pop, è nuova resistenza, no, io non punto al top, non è una mia esigenza, dedicata agli isolani e gli oppressi contro i vostri infami successi. Ascoltatori, questa è musica che va rilento, telespettatori, non è musica, è intrattenimento, grandi intenditori di sta musica, preparate la scomunica, è l'unica nostra spinta fuori da qua dentro. Ascoltatori, questa è musica che va rilento, telespettatori, non è musica, è intrattenimento, grandi intenditori di sta musica, preparate la scomunica, è l'unica nostra spinta fuori. Reduci l'asfalto incastrato tra mare e monti, cresciuti nei parcheggi tra palleggi, pochi pregi e zero sconti, senza geggi in mano, ginocchia sbucciate, ci si becca in giro, sempre pronti, senza paturne da foto profilo, appollaiati sugli scogli col mare da schifo, cocci più bocce di vino, occhi più chiusi al mattino, giri di freestyle tra pochi intimi come di rito, verti scritti a risputare in faccia ogni torto subito, lato contrario a tutto e subito, unità di misura, sudore al litro, tiratura limitata al micro, cultura dei coglioni oltre ogni limite, espressa tramite liriche, le liride di chi resta, non annichilito, F menti, versi al nitro, in tasca nulla, in testa all'infinito, muta sta merda in barra a me ne a dito, scruta dall'alto la cerchia, dritto e ritrito, fin dal giorno primo, da 13 anni declina l'invito. Ascoltatori, questa è musica che va rilento, telespettatori, non è musica, è intrattenimento, grandi intenditori di sta musica, preparate la comunica, è l'unica nostra spinta fuori da qua dentro. Ascoltatori, questa è musica che va rilento, telespettatori, non è musica, è intrattenimento, grandi intenditori di sta musica, preparate la scomunica, è l'unica nostra spinta fuori. Allora sono le 12.06 per questa settimana, Parole Ribelli vi saluta, tra pochi minuti tornerà Maria a proseguire la mattinata informativa. Noi quindi vi diamo appuntamento alla prossima settimana, come sempre martedì dalle 10.45 alle 12.45, vi invitiamo a rimanere sintonizzati, quindi un saluto a tutti e tutte da Francesca e un saluto anche da Carla, ci risentiamo la prossima settimana.